Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:06, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Partiamo da un dato: la regione Sicilia ha 21.000 dipendenti, uno ogni 239 abitanti. Tanto per fare qualche metro di paragone, in Lombardia i dipendenti della regione sono 3.700, in Veneto 2.800, in Piemonte 3.100, in Emilia-Romagna 2.700. In Sicilia, ripeto, 21.000. Tra l'altro molti sono qualificati, sono dirigenti. Se a Palermo i dirigenti sono 2.245, a Milano sono solo 300. Uno stipendificio, secondo qualcuno, tanto che ieri Libero titolava polemicamente fallimento Sicilia, bancarotta Sicilia, anzi questo era il titolo esatto. Fa ancora più scalpore scoprire per molti che tanti dipendenti della regione sono, ieri lo ha denunciato anche Repubblica, Attilio Bolzoni, sono parenti, figli, cugini, fratelli, nipoti, amici di amici, insomma una sorta di parentopoli, tanto che ieri Repubblica appunto scriveva è anche peggio di quando c'era Cuffaro, e sappiamo che con Cuffaro Repubblica non è mai stata tenera. C'è poi una Sicilia, una città della Sicilia, Catania, che poi è la nona città italiana, che è al dissesto finanziario. Dopo anni di gestione evidentemente non corretta del bene pubblico, si è portati al conti alla mano un buco di oltre 1 miliardo di euro, queste le stime. Parliamo di questo caso oggi e voglio salutare l'assessore regionale siciliano alla famiglia, politica e sociale, autonomie locali, Francesco Scoma. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Che starà con noi qualche minuto in apertura, perché c'è un convegno tra l'altro che incombe. Saluto Mariano Maugeri del Sole 24 Ore, il nostro Mariano. Buongiorno, ciao Mariano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Tra l'altro ti trovi proprio a Catania, in Sicilia, in questi giorni. Preannuncio, ci sarà anche un'intervista che abbiamo realizzato al presidente della regione Lombardo. Alle 9:09, il caso Sicilia, il caso Catania. Partiamo dalla vicenda cosiddetta parentopoli, che è un po' scoppiata dopo la denuncia dei sindacati, quando si è scoperto che la figlia di un assessore, l'assessore Ilarda, lavorava nella segreteria di un altro assessore. Scandalo perché Ilarda è un ex magistrato chiamato da Lombardo, definito quasi il Brunetta della Sicilia, messo all'assessorato al personale. La polemica insomma è scoppiata, la figlia si è dimessa peraltro, però pare dalle denunce essersi in realtà allargata. Assessore Scoma, tra l'altro lei è anche citato nell'articolo di Bolzoni, perché nella sua segreteria lavorerebbe la sorella del presidente del Senato Schifani, è così, Rosanna Schifani? Assolutamente, no, è certamente vero, ma voglio dire, io non credo che sia un reato né una colpa che un dipendente regionale possa prestare servizio a tempo presso un ufficio di gabinetto. Io credo che faccia parte della normalità. La dottoressa Schifani lavora alla regione dal 1991, per cui non trovo niente di scandaloso, poi a meno che non vogliamo che comunque essere figli, sorelle, cognati di politici sia un reato. Se questo pensiamo che lo possa essere, allora io credo che tutta l'Italia ne sarà piena di questo. Questo sicuramente non è un reato. Stupisce e colpisce però il fatto numero molto alto, insomma, di parenti che vengono. Ma voglio dire, guardi, secondo lei in tutti gli uffici d'Italia, dai ministeri alle direzioni generali, vogliamo fare una crociata perché diventa una colpa essere nipoti o figli di parenti o parenti di politici? Ma se lo vogliamo fare, facciamolo pure, però insomma mi sembra che sia piuttosto strumentale. Poi 7, 8, 10 persone su 21.000 dipendenti possano essere vicini o avere una parentela con qualche politico, però se lo vogliamo fare facciamolo pure. Vabbè, qualcuno, gli elencati sono un pochino di più. Senta, vabbè, saranno 20, ma insomma. La vicenda dei 21.000 dipendenti, è chiaro, sì. è una vicenda che si è accumulata nella storia, non possiamo rifare la storia della regione Sicilia, però è un dato inquietante, insomma. La ritengo una tragedia, veramente. Io nella scorsa legislatura, dal 2004 al 2006, ho fatto l'assessore regionale al lavoro e mi creda, ho dovuto lottare perché le condizioni del personale che negli anni si erano andate sovrapponendo avevano portato i dipendenti a numeri, a cifre ben più alte. perché questi 21.000 sono quelli che risultano nel ruolo della regione, ma se purtroppo drammaticamente ci mettiamo i precari dell'SU e quelli che si vogliono stabilizzare, forse arriviamo a una cifra che neanche noi riusciamo a contare. Io credo che vada tenuto conto ovviamente della difficoltà sociale dell'isola. Certamente il governo lombardo ha preso posizione dicendo che né provvederà a fare nuovi stabilizzati né provvederà a fare nuove assunzioni. Ma questo tra l'altro questo lo sentiremo, perché come preannunciato abbiamo fatto appunto un'intervista. Però assessore, visto che rimane con noi pochi minuti, Mariano Maugeri, è davvero così fitta questa Parentopoli? Tu che ti trovi in Sicilia, se puoi fare una domanda all'assessore. Sì, questa è una storia antica della Sicilia e purtroppo di tutte le regioni del sud, dove c'è stata negli ultimi 30 anni una crescita abnorme della spesa pubblica, e la spesa pubblica poi è gestita in modo assolutamente, come dire, cervellotico, in modo assolutamente non imparziale da una classe politica, perché sostanzialmente c'è il monopolio nelle mani, appunto, della spesa pubblica nelle mani dei politici, non c'è il mercato come succede in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, in Emilia-Romagna. Quindi al monopolio della spesa pubblica purtroppo si contrappone un altro monopolio, che è quello della criminalità organizzata, dalla Campania alla Sicilia, e sono i due enti, i due soggetti che poi riescono a dare posti di lavoro con i criteri immaginabili dell'uno e dell'altro. Quindi non solo questo meccanismo ha ucciso il mercato, la libera concorrenza e non facilita per nulla la nascita e la crescita di imprese libere, di imprese che non abbiano bisogno di finanziamenti pubblici, ma questo meccanismo sta uccidendo la democrazia, perché sostanzialmente ai partiti accedono solo quegli uomini che vengono selezionati secondo certi criteri familistici. E mi pare che anche non è una colpa ovviamente essere figlio di qualcuno, nipote di qualcuno, ma la democrazia si basa sulla mobilità sociale. Sì, non bisogna non bisogna trasformarla che diventi anche un pregio essere, o un privilegio essere parente o figlio di. Detto questo, assessore, visto che ripeto ci deve lasciare, ma ovviamente avremo tempo altre volte. Lo so, però le chiedo ancora due cose. Ovviamente non sono assunti a concorso, cioè quello che fa che colpisce è che sono assunti cosiddetti temporaneamente a chiamata, cioè un assessore può, siciliano è vero, avere fino a 25 collaboratori a chiamata? No, questo è assolutamente falso. Un assessore può avere soltanto 5 persone esterne, ma possono avere anche i sottosegretari, possono avere anche i ministri, ma io credo che non sia niente di assolutamente eclatante. 5 persone in un ufficio di gabinetto, che poi sono il segretario particolare, il vice capo di gabinetto, il capo della segreteria tecnica, insomma, sono figure abbastanza importanti e credo che siano anche figure delle quali ci si debba fidare. È questo che colpisce, che ci si fida spesso soprattutto di figli di, voglio dire. Ma può capitare, io adesso mi spiace, non ho nessuna voglia né penso assolutamente di entrare in polemica con nessuno. È capitato, capiterà ancora probabilmente, ma provate a chiedere o a vedere gli uffici dei direttori generali delle aziende pubbliche quanti esterni ci sono, quanti contrattualizzati ci sono. Cioè è sempre il gatto che si morde la coda, ma non lo so. Ripeto, poi ognuno di noi guarda, parla, giudica, opera secondo la propria moralità. Io non mi sento scalfito da questa cosa, quindi. Va bene, io assessore la ringrazio per essere stato con noi. Voglio ricordare Francesco Scoma, l'assessore alla famiglia, politiche sociali, autonomie locali alla regione Sicilia. Tra l'altro ripeto, è venuta fuori questa vicenda, insomma è una vicenda in realtà annosa, bisognerebbe capire anche come mai è venuta fuori o è tornata fuori adesso. Parliamo del caso Sicilia, il bancarotta Sicilia titolava ieri Libero, riferito anche a una città in particolare, Catania, dove come ho detto sono circa 1 miliardo di euro i debiti accumulati per gestioni finanziarie, evidentemente ci sono anche delle inchieste in corso passate, gestioni sicuramente infelici per usare un eufemismo. Tra l'altro a Catania abbiamo sentito anche il GR24, che succede? Che spesso gli spazzini non raccolgono più l'immondizia perché non ci sono più soldi per pagare gli stipendi, spesso adesso la città è al buio perché l'Enel ha accumulato tali debiti che si è stancata di dire: sapete che c'è, noi vi spegniamo la luce. E allora, prima di sentire quello che ci ha detto sul caso Sicilia il presidente Lombardo, io voglio salutare il professor Orazio Licandro, che insegna oggi diritto romano a Catanzaro, ma è stato parlamentare fino a poco fa dei Comunisti Italiani. Buongiorno Licandro, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. L'abbiamo invitata anche perché Licandro è uno di quelli che da sempre ha bacchettato, ha detto, ha fatto denunce, ha fatto, qualcuno dice, partire tutto questo, tutte le indagini che hanno portato a scoprire questo crack finanziario di Catania. E allora, sentiamo però che cosa ci ha detto Lombardo, il presidente della regione Lombardo, della regione Sicilia, al microfono di Valentina Furlanetto. Lombardo, facciamo una precisione, è un tipo tosto, è inutile negarlo, è un tipo anche duro, uno che, ci sono degli aneddoti incredibili, insomma, è una persona che dà poca confidenza, lo sentite sempre col suo tono perentorio. Rispondere a Valentina Furlanetto a partire da questa accusa, quella di parentopoli in Sicilia. Ci sono molte falsità in questi articoli, io ne ho letto uno in particolare, quello di Repubblica, che sarà ovviamente oggetto di una querela. Gli assessori, non so cosa succede nelle altre regioni, penso che ne abbiano ancora di più di collaboratori, si avvalgono per una collaborazione diretta con loro di dipendenti, o di dipendenti regionali o di collaboratori a tempo più che determinato, dei quali devono fidarsi e per i quali indubbiamente non si fa un concorso, e che dopo 3 mesi, 6 mesi o un anno, e comunque quando va a casa l'assessore vanno a casa anche loro. La figlia dell'assessore Ilarda, nello specifico, collaborava con un gabinetto assessoriale dal 2006, avrebbe dovuto, visto che il padre è stato chiamato, certo non per di lei intercessione, a fare l'assessore, perdere il posto e quindi trovarsi in mezzo a una strada. Non lo ha fatto, e questo è il crimine che si addebita a Ilarda e a sua figlia, la quale peraltro si è dimessa a seguito di questo cancan. È una schifezza ed è una vergogna. Libero poi batte e ribatte su sperperi e quant'altro. Noi ieri notte abbiamo approvato un piano di rientro della spesa sanitaria che costerà lacrime e sangue, non avete idea di quanta impopolarità ci procurerà. Così come stiamo lavorando, ma non è una cosa da niente, a sciogliere, fondere, eccetera, società partecipate della regione o agenzie varie che comportano sperperi e sprechi. Si lamenta anche che un deputato che non è stato rieletto fa parte di un ufficio di gabinetto, si favoleggia su indennità di 70.000 euro, che poi tolte le tasse si ridurranno a 2.500 euro al mese. Ma scusatemi, se io ho fiducia in un deputato, anzi in un ex deputato, del quale mi fido perché è amico mio, perché abbiamo un rapporto competenziale, perché appunto la fiducia richiede queste cose, ho il diritto per legge di ingaggiarlo e lo ingaggio. E chi grida allo scandalo non è che sbaglia, è un gran disonesto. Però i dipendenti a carico della regione Sicilia sono 21.000 contro circa 3.700 dipendenti della Lombardia. Come giustifica il fatto che oltre ai 21.000 dipendenti servono anche consulenti esterni? No, c'è una componente di consulenti o di dipendenti interni, c'è una componente di dipendenti esterni. Ogni assessore fa la sua scelta. È così una legge. Impone di avere 21.000 dipendenti. Guardi, intanto lei dovrebbe vedere che il confronto con la regione, io stesso dico che i dipendenti sono troppi, e io stesso circa 3 mesi fa ho fatto una lettera a tutte le aziende e agenzie in attesa di fusione perché non assumano una sola persona, perché se assumeranno una sola persona saranno deferiti quantomeno alla Corte dei Conti, numero uno. Io stesso ho sottoscritto con i sindacati un piano per l'impiego produttivo del personale che prevede la mobilità del personale e che contempla al tempo stesso di non assumere nessuno più fin quando l'eccesso di personale non sarà ridimensionato grazie al pensionamento delle persone. Sono presidente da 4 mesi e per ridurre il numero del personale certamente non credo che qualche giornalista mi voglia suggerire di ammazzare la gente. Aspetto che vada in pensione. Insomma, anche lei dice forse 21.000 dipendenti sono tanti. Allora, Allora, 21.000 dipendenti sono tanti, possono essere di meno, ma tenga presente che la regione siciliana governa, in virtù di uno statuto speciale, una serie di competenze e di potere che tutte le regioni a statuto ordinario non hanno. Le avranno ora con il federalismo fiscale. Tanto per essere chiari, se la regione Lombardia avrà la competenza in materia di scuola, ovvero in materia di università, se avrà la competenza in materia di servizi sociali, ovvero di agricoltura, il numero dei suoi dipendenti aumenterà perché tutti i dipendenti dello Stato passeranno a carico della regione, si passerà da 3 a più che 20.000. Per quanto riguarda la regione, ci promette che non assumerà più nessun altro? Io non ho assunto nessuno, non le prometto nulla, ho scritto una nota vincolante ed impegnativa che parla da sé, non si tratta di promesse ma bensì di azioni concrete che smentiscono le disonestà di cui, a proposito di taluni articoli della stampa anche di oggi, lei ha parlato ad apertura della nostra simpatica intervista. E allora, questo ha detto la nostra Valentina Furlanetto, il presidente della regione Raffaele Lombardo. Ha detto delle cose molto interessanti, secondo me, anche quella sul federalismo, che poi allarga il discorso. Prima però vorrei andare a un ascoltatore e poi dal professor Licandro. Paolo da Pescara, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, volevo dire, io lavoro con un'azienda che vanta un credito di circa 100.000 euro lì a Catania come fornitore di enti pubblici. La mia azienda dal comune di Catania. Sì. Chissà se li rivedrà. Beh, ecco, ma infatti già il comune ha dato notizia che sono soldi insolvibili, come si suol dire. Allora, questo che la riflessione mia era questa. Come il comune di Catania ci sono altri comuni in grosse difficoltà che sono Grosseto e Palermo, quindi non è escluso che fra qualche anno uscirà anche questo bubbone. La mia riflessione a questo punto è questa. Capisco l'esplodio di Brunetta del governo Berlusconi, che sapeva di questo bubbone siciliano che sarebbe uscito nel corso della sua legislatura. Quindi l'esplodio di Brunetta, a mio avviso, rappresenta un capo espiatorio per il taglio della spesa pubblica, perché si parla tanto di Alitalia che sta facendo quello che sta facendo. Della Sicilia vi do atto, a voi che state prendendo dopo la notizia che è uscita in prima pagina sul Libero e su Repubblica, ma vedo che l'informazione ne tiene pochissimo conto, diciamo. E vabbè, lei segua Radio 24, sì, ma sì, anche sì, ieri sì. Maugerini ha scritto sul Sole 24 Ore, voglio dire, siccome lei ha citato tra l'altro il caso Alitalia. Però io faccio l'esempio tra la risonanza di Alitalia e la risonanza della Sicilia. Le sembra paritetica questa risonanza? No, ovviamente no, anche se ieri Libero ha proprio fatto questa operazione, ha messo il confronto con Alitalia, dipendenti della Sicilia, ricordiamo circa 21.000, disavanzo 2007 della Sicilia 1,7 miliardi di euro, dipendenti di Alitalia 18.000, perdite nette del 2007 495 milioni. Professor Licandro, partiamo, poi arriviamo ovviamente al caso Catania, che lei conosce molto bene, però questa vicenda della Parentopoli è, come scrive oggi sul Riformista, o meglio intervistato sul Riformista Buttafuoco, siciliano doc, a dire: ma piantatela col razzismo contro la mia Sicilia, la Parentopoli c'è ovunque, perché ve la prendete con noi? Beh, bisogna sempre distinguere gli aspetti fisiologici da quelli patologici, e dunque io credo che per quanto riguardi la Sicilia, ma su questo punto credo di parzialmente abbiano ragione gli altri, il problema investa anche le altre regioni del Mezzogiorno, per l'analisi che ha condotto molto succinta nell'esposizione Maugeri. Cioè la spesa, le due SPA più le due aziende più grandi che danno occupazione sono, da un lato, la cosa pubblica, la pubblica amministrazione, e dall'altro la criminalità organizzata nel Mezzogiorno. Dopodiché il presidente Lombardo è molto abile, dice una cosa vera, non si tratta ovviamente di reati, qui non c'è il codice penale, stando almeno a quello che ne so, che ho letto, perché questo avviene sulla base di normative vigenti, e qui bisognerebbe aprire un altro capitolo di approfondimento, di analisi e di riforme, direi al ministro Brunetta, di aggredire problemi veri, concreti e non propaganda. Quindi la riforma degli enti locali, guardi quella parte delle riforme Bassanini che hanno introdotto la facoltà degli enti locali, delle regioni, di nominarsi consulenti quasi senza tetto, e sta alla base di questo scandalo che, ripeto, non si fonda sì. tanto sul codice penale, salvo accertamenti della magistratura, quanto appunto sull'immoralità profonda del sistema. Ma è un altro discorso. Però vorrei obiettare a Scoma e Lombardo due cose, ma al di là della quantità, e poi non bisogna fermarsi soltanto ai figli dei più noti o ai parenti dei più noti, perché poi ci sono i parenti dei meno noti, dei consiglieri comunali, dei consiglieri provinciali, degli assessori comunali e provinciali, insomma il numero dei parenti si allarga, ma il punto è questo, ma abbiamo tutti la medesima opportunità, i cittadini hanno tutti la medesima opportunità? È una domanda, è una domanda che suona vagamente retorica. Posso che non si accede attraverso prove selettive, concorsi, ma abbiamo tutti la medesima opportunità. In democrazia è questo. Il merito viene considerato. Questa è una questione annosa, insomma, e ripeto, la domanda suona vagamente retorica. Tra poco, adesso, subito dopo la pubblicità, ci addentreremo nel dissesto di Catania, cercare di capire, insomma, perché il comune di Catania è arrivato ad accumulare fino, pare alcune stime, 1,7 miliardi di debito. Sono tanti, con situazioni davvero, davvero difficili. Sicilia, Italia, Catania, Italia. Saluto il sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli, buongiorno. Buongiorno a lei. Di Alleanza Nazionale, sindaco da pochi mesi, nonché senatore. Tra l'altro è a Roma perché so che ci sono delle riunioni tecniche. Bisogna lavorare giorno per giorno per cercare di vedere questo dissesto, come salvarlo. Allora, sindaco, prima di venire a lei, Mariano Maugeri, del Sole 24 Ore, che sei a Catania, tra l'altro lo vogliamo ricordare, ieri hai scritto: ci sono delle relazioni delle Corti dei Conti abbastanza impietose, ci sono anche delle inchieste, vogliamo ricordare, qualcuno ha detto prima, ma si sapeva, il governo Berlusconi lo sapeva che sarebbe scoppiato il bubbone, lo ricordiamo, anche il sindaco per 8 anni è stato Umberto Scapagnini, e nonché medico personale di Berlusconi, quindi cosa dicono queste relazioni della Corte dei Conti riguardo alla gestione politica della cosa pubblica a Catania negli ultimi anni? Guardi, io voglio evitare in questo momento le polemiche che non servono a nulla, abbiamo soltanto un dovere, quello di salvare Catania dal dissesto finanziario che potrebbe stare alle porte se non interveniamo immediatamente. Sì. Vi è una possibilità di salvare Catania, come ho già riferito al Presidente Berlusconi, che è quello di intervenire attraverso non un mero fatto assistenziale, non ci interessa. Catania ha questo grave deficit di 357 milioni di euro, abbiamo presentato un piano di rientro ben articolato che prevede non soltanto dei risparmi a regime di 40 più milioni di euro l'anno fino al 2015, ma anche degli interventi strutturali, quali dismissioni, intervento sulla partecipate, riforma del personale e altre dismissioni di edifici passivi per quasi 7 milioni di euro l'anno. Sì. Ecco, tutta questa attività ci serve, abbiamo bisogno di chiudere però, di chiudere almeno una parte del deficit, per l'esattezza i debiti verso i fornitori. Che vuol dire? Guardi, sindaco, poi vado un attimo da Maugeri. Sì. Sindaco, poco fa è intervenuto un ascoltatore, proprio creditore a una piccola azienda, creditore per 100.000 euro dal comune di Catania, crediti che gli hanno fatto capire che non sono esigibili. Insomma, che vuol dire? Cioè, ci vuole un prestito dallo Stato, che poi siamo noi, Sì, lo so, noi abbiamo fatto un piano di rientro che prevede o un'anticipazione, e così come è avvenuto per Roma, o la utilizzazione dell'articolo 58 della legge 133 del 2008, del mese di agosto, che ci dà la possibilità di dismettere il patrimonio su superando tante difficoltà di natura procedurale, quale trascrizione, catastazione, destinazione urbanistica, e su questo stiamo lavorando e abbiamo già fatto un grosso passo in avanti. Ecco, abbiamo bisogno, ripeto, di chiudere la vicenda fornitori, non c'è soltanto quel creditore di 100.000 euro, ma ce ne sono tanti altri, sono quasi a 200, e questo è il pericolo vero. Le chiedo, scusi sindaco, ma chiudere come? Cioè dei soldi dal governo centrale? Me lo concretizzi in maniera... Ho parlato di una anticipazione. Anticipazione. Ecco, non fondi a fondo perduto assistenziale, perché non servono a nulla. Non saremmo credibili, vogliamo fare con le nostre forze, ma è necessario però mettere un punto fermo. Sì. Ecco, questa questo è chiaro. Allora, Mariano Maugeri, che hai letto appunto le relazioni della Corte dei Conti, cosa dicono della gestione, come è stata gestita Catania? Ma sostanzialmente dicono che sono state effettuate delle spese molto forti senza nessuna copertura, cioè che le coperture, perché la legge prescrive che a fronte di ogni spesa poi vadano reperiti i fondi per coprire quella spesa, succede anche con lo Stato, con la finanziaria, con la legge di bilancio. In Sicilia si spendeva a Catania, cioè si spendeva con copertura di spese e quindi le entrate erano sostanzialmente false, fasulle, oppure ben superiori a quelle effettive, reali. E su questo non solo c'è la denuncia della Corte dei Conti, ma c'è un'inchiesta della Procura della Repubblica di Catania, probabilmente anche questa tardiva, perché si poteva intervenire prima, con reati gravissimi, tra i quali associazione per delinquere. Fai una domanda al sindaco, cosa ne pensi di questo piano di recupero? Il sindaco, esprimo la solidarietà, perché evidentemente non ha colpe, è stato appena eletto e si trova ad ereditare una situazione drammatica. Io vorrei ricordare che l'anticipazione di cui parla il sindaco, che monterebbe a 30 milioni di euro, lo Stato fa dei trasferimenti ai comuni 3 volte l'anno, non, purtroppo per la città e per il sindaco non risolve assolutamente nulla, perché ovviamente 1 miliardo con 30 milioni, vi rendete conto, il sindaco non riesce neppure a pagare gli stipendi dei 4.200, poi nessuno sa neppure quanti siano i dipendenti comunali, l'ho chiesto a decine di fonti, diciamo tra i 4.200 e i 5.000, quindi il comune ha bisogno entro domani di 11 milioni di euro. Ricordo, a proposito della telefonata del fornitore, che tutte le banche hanno chiuso le linee di credito con tutti i fornitori del comune di Catania, quindi non è semplicemente una questione che riguarda i dipendenti del comune, ma riguarda l'intera città, e che avrà effetti devastanti. I net urbini di una società privata, perché poi una parte della nettezza urbana è gestita in prima persona dal comune di Catania, che non è riuscita in 20 anni a creare una municipalizzata, che non mi pare un evento rivoluzionario sul piano organizzativo, ha anticipato di tasca propria i soldi per pagare i dipendenti, e entro il 15 ottobre si aspetta dal comune di Catania arretrati per il valore di 5 milioni di euro. Addirittura le discariche sono chiuse, il proprietario della discarica, dove appunto finisce la spazzatura, l'ha chiusa perché ha un credito enorme nei confronti del comune. Quindi se si sommano queste cose, il quadro è allarmante. Sindaco, ecco. Stancanelli, poi vengo anche ovviamente da Orazio Licandro. Sindaco, c'è da dire che ha fatto scalpore leggere nei giornali scorsi, però le va dato atto che credo la persona sia stata rimossa, che mentre Catania rischia di affondare, il capo, credo dirigente del comune, del personale, ha dato a tutti i dirigenti del comune i premi di produttività, avete capito bene, i premi di produttività. Credo che sia stato rimosso fortunatamente quel dirigente nel giro di 24 ore. Allora, le dico subito, intanto ringrazio il dottor Maugeri per la solidarietà, però ha descritto una situazione di Catania impietosa, ma purtroppo veritiera, ma tra l'altro l'avevo fatto già io nella lettera che ho mandato al Presidente Berlusconi, è stata pubblicata dalla Sicilia interamente e l'altro giorno anche dal Corriere della Sera. Vi è un dato però che non corrisponde alla realtà, non è 1 miliardo di euro di buco, perché lui mette in questo miliardo anche i 500 e più milioni di rate di mutuo, di ammortamento sia un patto fisiologico, sì, in un comune, ecco. Sì, io diciamo sono 357 milioni più, vabbè, però si arriva a un miliardo alla fine. No, no, 357 milioni, noi non abbiamo chiesto 30 milioni, io ho detto poco fa, ma l'ho ribadito a tutti i livelli politici, anche tecnici, che noi per chiudere la vicenda e poi dimostrare che facciamo con le nostre risorse, con la volontà che abbiamo di riprenderci e con quei quattro punti che avevo illustrato prima, abbiamo bisogno di chiudere con i fornitori e i crediti dei fornitori ammontano a 170 milioni di euro. Quindi, ecco, quindi molto di quando più. Io parlo di anticipazione, quando io parlo di anticipazione, parlo non di 30 milioni, perché i trasferimenti dello Stato e della Regione avvengono, come giustamente dice il dottor Mogheri, tre volte l'anno. Cioè sono di più, quindi 170 ne servono. No, 170 sono all'interno dei 370, sono all'interno dei 370. Sì. Il buco complessivo è 370. Ma questi 170 sono... milioni, mi scusi, le servono entro quando? È questa l'anticipazione? No, non, che è un problema, non è un problema, entro. Noi abbiamo l'obbligo di chiudere entro il 31 dicembre superando le difficoltà del dissesto del 2003, del 2004, del 2006. E diciamo entro il 31 dicembre servono questi 170 milioni. Abbiamo le difficoltà ad ora, obiettivamente ha ragione il dottore Mogheri, ma ci stiamo attrezzando anche sotto questo profilo. La situazione è difficile, non lo nego, ci mancherebbe. No, no, ma le chiedo, sindaco, perché lei ovviamente dice ma io non voglio entrare in polemiche politiche, però non possiamo far finta di niente, io l'ho detto. Ma io non faccio finta di nulla. No, mi faccia fare la domanda, voglio dire, il suo predecessore... che è Umberto Scapagnini, è il medico di Silvio Berlusconi, insomma è una persona molto vicina al Presidente del Consiglio, quindi lei sta andando a chiedere soldi al governo e l'eredità che le arriva è l'eredità venuta da un sindaco vicinissimo a Silvio Berlusconi. Questo, voglio dire, comporterà qualcosa, non lo so, un favore, l'accoglieranno più a braccia aperte o più a braccia conserte? Ma non faccio riflessione psicologica se a braccia aperte o a braccia conserte, ho il dovere da sindaco di tutti i catanesi di non arrivare al dissesto e sto tentando tutti i mezzi per non arrivarci, ho chiesto la solidarietà di tutti i partiti politici, ho fatto venerdì scorso una riunione con tutti i parlamentari di tutti i partiti del centrodestra e del centrosinistra, abbiamo condiviso una linea, nel senso cioè che dobbiamo agire per salvare Catania, e questa è la mia linea di condotta. Questo sicuramente, sindaco, rimanga con noi. Orazio, sì. Licandro, perché Catania è arrivata a questa situazione di dissesto? Lei che ha fatto diverse denunce al riguardo. Guarda, intanto saluto il sindaco Stancanelli, che ovviamente è estraneo alla catastrofe che si sta registrando, che purtroppo sta maturando giorno dopo giorno, e spero davvero che si riesca a trovare la via d'uscita, perché la città, ma poi i catanesi, le persone in carne e ossa, insomma, stanno danzando sull'orlo di un precipizio profondissimo. Allora, noi avevamo avvertito già da anni il preoccupante crinale che aveva imboccato il comune di Catania, e già dal 2003, a nostro giudizio, i conti non erano in ordine. Questo ci poi fu confermato da una notizia di cronaca del 2005, quando ancora Silvio Berlusconi, nell'agosto del 2005, scomodò persino il Presidente della Repubblica per varare un decreto che, tra le altre cose, destinava, si ricorderà anche lei, parte dell'8 per mille per problemi di liquidità del Comune di Catania, scatenando un putiferio, sì, incredibile. Il problema è che quell'andazzo, quello che Vittorio Feltri scrive nell'editoriale di ieri, non sono mie parole. Siamo alla dimostrazione pratica dei guasti prodotti dalla banditesca gestione pubblica affidata a politici tanto avidi quanto incapaci e stolti. È continuato, la situazione si è aggravata, e quando i nodi arrivano al pettine, ci sono gli obblighi di legge, e cioè alla fine del triennio dimostrare, portare in pareggio i bilanci, ecco che si procede a quel tipo di operazioni di cui ha parlato Mogheri. Ora, sì, Il punto qual è? Ha ragione Maugeri, 30 milioni di euro non servono a niente, anche 70, servono soltanto a dare un po' di respiro, pagare gli stipendi ai comunali e magari tentare con la Cassa Depositi e Prestiti la rimodulazione, sì, certo, dei mutui. Dopodiché è chiaro che la risalita è molto lunga. Il dato strutturale resta invariato. In più c'è un ulteriore indebitamento della città. E poi vorrei dire al sindaco, non giochiamo con le parole. Il buco è una cosa ed è di 350, ma c'è chi dice 500 milioni di euro, e significa che bisogna colmare subito. L'indebitamento complessivo è di un miliardo, oltre un miliardo. Ma è quello che abbiamo detto, professore. Mauro, dalla provincia di Venezia, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io volevo dire una mia opinione, che solamente un federalismo ben strutturato potrebbe risolvere anche i problemi del Mezzogiorno, in quanto se le gestioni dei comuni e delle regioni non funzionano in maniera efficiente, si troveranno i cittadini a dover pagare delle tasse più salate, e in questa maniera diventeranno più responsabili e sapranno esattamente chi votare, senza... Lei dice il federalismo. Guardi che a me ha colpito quello che però ha detto Lombardo, lei l'ha ascoltato bene, a dire: noi siamo 21.000, ma siamo una regione a statuto speciale. Guardate che un domani col federalismo, se non so, la Lombardia avrà competenze più allargate, come ha oggi la regione Sicilia, altro che 3.000 dirigenti, saranno anche più di 20.000. Sì, cioè, questo... siccome ha dato l'altra ricetta che è sacrosanta, cioè a dire non è che si possono ammazzare i dipendenti oggi statali che si occupano di questo, bisogna aspettare che vadano in pensione, è un argomento molto delicato, c'è il rischio che i conti esplodano su questo punto di vista, per carità, invece che contenersi. Comunque Mauro, la ringrazio. Da questo punto di vista, Stancanelli, sindaco, secondo lei che è tra l'altro molto amico e vicino a Lombardo, il federalismo può essere una ricetta? Oppure Lombardo, lei non c'era, ma in un'intervista registrata ci ha detto: ne siamo 21.000 in Sicilia, ma occhio che col federalismo anche le altre regioni aumenteranno i dirigenti. Ma se lei mi permette, devo fare una precisazione relativamente a quanto ha detto il professore Licantro. Innanzitutto non è vero che noi dobbiamo coprire entro il 31 dicembre 357 milioni, dice una cosa non vera, perché per norma si devono coprire solo i disavanzi del 2003, del 2004 e del 2006, che ammontano a 100 milioni di euro. Secondo, non è vero che abbiamo chiesto 30 milioni in anticipazione. Terzo, mi pare di capire che il professore Licantro si augura il dissesto per polemica politica, mentre il lavoro che sto facendo io, e ho chiesto la solidarietà di tutte le forze politiche e sindacali, è quello di evitare il dissesto per i gravi danni sociali che si creerebbero a Catania. Ecco, non vedo perché la polemica politica debba portare a delle conseguenze che sicuramente sarebbero un danno, sì, per Catania, non per il sindaco Stancanelli, che come giustamente ha detto lei si è insediato soltanto da 2 mesi, ma per Catania. Detto questo, il federalismo ha un significato, e io condivido quanto ha detto l'ascoltatore di Venezia: i responsabili amministrativi devono essere per rispondere ai cittadini. Ecco per cui, se il federalismo vuol significare mettere in condizione gli amministratori di essere controllati, io sono ben lieto che questo avvenga, che ci metta nelle condizioni di lavorare. È chiaro ovviamente che, essendoci due Italie, non possiamo nasconderlo, il federalismo deve avere, e mi pare che la bozza Calderoli vada in questo senso, quei pesi e contrappesi che mette nelle condizioni il Mezzogiorno di fare da sé, ma deve essere penalizzato, specialmente per i livelli minimi di assistenza. Allora, vediamo se ce la facciamo. L'ultimo ascoltatore, Antonello da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Se era possibile, dato che noi italiani abbiamo sempre la memoria corta, vorrei sapere se era possibile il sindaco Stancanelli, negli 8 anni della gestione, del sindaco Scapagnini, se aveva degli incarichi presso la giunta di Catania, visto che tutti si dice che sono solo 4 mesi. Giusto, Stancanelli, prima... lei fino che ruolo ha avuto in Catania? Io non ho avuto ruoli amministrativi a Catania mai, sono stato consigliere comunale nel 1991, e sono stato deputato regionale in assemblea regionale dal 96 al 2008. Le chiedo, sindaco, così ha risposto ad Antonello, lei, come detto, è sindaco di Catania e anche senatore, non c'è in questo caso incompatibilità, no, per una bizzarria della legge, cioè lei è stato eletto prima al Senato e poi al Comune, quindi questo è la legge. Se fosse stato viceversa sarebbe stato incompatibile. Approfitto dell'occasione che mi dà, non c'è il Q dell'indennità. Mi ha anticipato la domanda, almeno non prende due stipendi, no? Io ho soltanto l'indennità di senatore. Ecco, la sindaco di Catania prende 0 euro, anche perché forse servirebbero di più i soldi per altre cose, senza volerle togliere lo stipendio da sindaco, tanto l'indennità da senatore mi sembra che sia abbastanza alta. Mariano Maugeri. Come quella che aveva l'onorevole lì quando era deputato. Certo, come no, è ovvio. Mariano Maugeri, si rialzerà Catania? Tu che sei lì, insomma, che dice la gente di questa... No, Alessandro, una precisazione a proposito del federalismo. Al nord è giusto, il nord è giusto che rivendichi il federalismo, perché è in altra condizione appunto economica e sociale. Al sud ci vuole più centralismo. Questo è un disastro che è frutto di un autonomismo estremo. Cioè, questo è il paradosso. So che è difficile spiegarlo. Ed è un autonomismo, quello siciliano, talmente estremo che nessuno può dichiarare lo stato di dissesto. Io su questo, sindaco, dissento fortemente da lei. Mi creda, cioè dichiarare il dissesto è una questione di igiene democratica, bisogna chiudere questa partita e dire ai cittadini dove sono finiti i quattrini, chi se li è presi. C'è un'inchiesta in corso. Una montagna di soldi. Tra l'altro, Mariano, Alessandro, sì. Qui a proposito di tassazione c'è il massimo di ICI possibile e il massimo di TARSU possibile. Ovviamente i livelli di tassazione sono schizzati al massimo in una situazione debitoria come questa. A Taranto è stato dichiarato il dissesto e non mi pare che ci sia stata una rivoluzione. Chiudete una partita e ne cominciate un'altra, caro sindaco. Chi pagherà poi è la domanda possibile. Che... Perché lo deve dichiarare lo stato di dissesto, questo altro paradosso, lo stesso consiglio comunale, che non lo farà mai. In alternativa l'assessore Scoma, che abbiamo sentito poco fa, che ben se ne guarda di affrontare questo problema, cioè è il piromane a cui lo statuto siciliano chiede di fare il pompiere. Tra l'altro io devo fermarmi, devo fare una precisazione, nel senso che molti ci chiedono perché non chiamate Scapagnini o Scapagnini verrà processato. C'è un'inchiesta in corso ovviamente a Catania su questo, abbiamo contattato, ieri abbiamo avuto un breve contatto al mattino perché adesso è parlamentare, era al voto, poi al telefonino non siamo più riusciti a contattare l'ex sindaco Scapagnini, ma torneremo, perché questo tema, credete che finirà così? No, la vicenda Catania e Sicilia sarà ancora sulle prime pagine dei giornali. Ci fermiamo, i ringraziamenti ad Alessandro Marcotulli e Elisabetta Fusconi in redazione, Giorgio Matè in regia. A domani.